La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alle tesi dello storico della matematica Giorgio Israel, oggi ospite ai nostri microfoni, a proposito delle leggi razziali promulgate da Mussolini nel 1938. La parola va ora a Dino Pesole. Discute da molti anni nel nostro paese, sia tra storici di diverso orientamento, sia a livello politico, sulla vera natura della politica razziale messa in atto dal fascismo, che culminò con le leggi razziali del 1938. A una corrente di pensiero che tende tutto sommato a definire la politica razziale di Mussolini come più blanda, una sorta di brutta copia, per così dire, della ben più massiccia e capillare persecuzione messa in atto da Hitler nei confronti degli ebrei, si contrappone la tesi di molti storici che mettono in luce al contrario la pervasività e capillarità della politica razziale del Duce. Ora un nuovo libro, scritto dallo storico della matematica Giorgio Israel, pubblicato dal Mulino, dal titolo Il fascismo e la razza, la scienza italiana e le politiche razziali del regime, apre un nuovo fronte di riflessione e analisi. In realtà, sostiene l'autore, il razzismo di Mussolini trovò un sostegno in alcune elaborazioni teoriche della scienza italiana, dall'antropologia all'eugenetica alla demografia. Il primo documento ufficiale da cui scaturirono le leggi razziali italiane è il manifesto sulla purezza della razza del 14 luglio 1938, redatto da 10 scienziati e sottoscritto da altri 180 scienziati e da 140 tra politici, intellettuali e giornalisti. L'esistenza delle razze umane non è già un'astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano a ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della nazione italiana. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Così il Duce annunciò nel 1938 il varo delle leggi razziali. Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Gli ebrei di cittadinanza italiana si seguiranno i loro confronti una politica di separazione. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore. A meno che i semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringono a mutare radicalmente cammino. Abbiamo in linea lo storico della matematica Giorgio Israel, che insegna alla Sapienza di Roma, che ha pubblicato questo libro per il Mulino dal titolo Il fascismo e la razza, la scienza italiana e le politiche razziali del regime, che ha ispirato il nostro approfondimento di oggi. Professore, grazie e buonasera. Buonasera. Allora, ci illustri qual è nel dettaglio il fondamento teorico, scientifico della politica razziale del Duce alla luce delle sue analisi e delle sue interessanti, se vogliamo anche per certi versi inedite, scoperte. Ma effettivamente quando Mussolini rivendicò più tardi il fatto che il fascismo avesse avuto nei suoi fondamenti l'idea della razza, era nel vero. E quindi il razzismo fascista non è stata una semplice copia, una acquiescenza a quello tedesco, a quello nazista, al contrario esso aveva delle differenze sostanziali e la differenza principale è che tutto sommato, malgrado alcune inclinazioni, insomma il razzismo fascista ha avuto molte correnti all'interno e vi sono state correnti che erano vicine a quelle del razzismo germanico, che era essenzialmente biologico, cioè basato sul culto del sangue, e al contrario le correnti prevalenti nel razzismo fascista che dopo alcune oscillazioni Mussolini ha adottato sono state di carattere più spiritualistico, cioè un concetto della razza come stirpe basata su una comunanza non soltanto di elementi biologici, ma soprattutto di elementi di carattere di civiltà, di cultura, di suolo, di persino alimentare. Ecco. Tutto questi sono stati gli elementi caratteristici. Nel manifesto della razza c'è un'inclinazione più biologistica e infatti tutto sommato, malgrado sia il documento più famoso, non è quello che veramente caratterizza la politica fascista della razza. Ecco, in che modo, professore, il fondamento teorico della politica razziale del Duce influenzò poi concretamente la politica razziale del regime a partire dal 1938, che poi l'anno clou in cui vengono varate le leggi razziali? Beh, lo si vede da un punto fondamentale, cioè la legislazione razziale fascista, che intende era estremamente pesante e dettagliata. Sono centinaia di pagine di leggi, documenti, circolari e così via, quindi non è che si trattasse di qualcosa di leggero, però tuttavia consentiva la cosiddetta discriminazione, cioè consentiva agli ebrei che si erano distinti al servizio della nazione in certi casi di poter essere parzialmente esentati dalle leggi razziali. Questo, come ebbe a dire uno dei teorici del razzismo fascista, Nicola Pende, dimostrava il carattere più spiritualistico del razzismo italiano, che appunto non era basato solo sul sangue, altrimenti il sangue è un fatto indelebile, fisico, che uno non può mutare. Ecco. Questo ha inciso sul tipo di politiche che non erano volte allo sterminio quanto alla separazione della minoranza ebraica, la sua espulsione dalla comunità nazionale. Ecco, lei diceva poc'anzi, professor Israel, centinaia di pagine e leggi. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, in realtà ci vollero degli anni prima di cancellarle dal nostro ordinamento, ci fu tutto un lavoro che è andato avanti per molti anni, per decenni addirittura. Sì, anche per parecchi decenni, una ricerca fatta fare dal Senato della Repubblica quando era presidente Spadolini ha mostrato che gli ultimi scampoli della legislazione razziale sono rimasti fino all'inizio degli anni Ottanta, una cosa impressionante, sono più di 30 anni per eliminare pezzo a pezzo tutta la legislazione razziale, che riguardava una quantità di aspetti incredibile, una pignoleria impressionante, corredata poi appunto, come dicevo, da una gran quantità di circolari della questura, delle prefetture e così via. Dalla sua ricerca, professore, emerge chiaramente quanto già per molti versi avevamo già acquisito, e cioè la politica razziale di Mussolini non fu un caso, ebbe un retroterra culturale, trovò al suo interno dei sostegni all'interno del paese, dell'intelligenza di allora, e dunque questo serve anche a storicizzare e a valutare nel suo complesso quello che poi decise Mussolini. È d'accordo lei? Io penso che si debba dire che la popolazione italiana è stata immune dall'antisemitismo più di altre popolazioni europee, per esempio in Francia, in Germania, e la popolazione nella sua massa, poi il mondo intellettuale invece, il mondo intellettuale scientifico, il mondo accademico si è coinvolto, si è compromesso, si è sporcato nelle politiche razziali in un modo assolutamente impressionante, e questo fa sì che ancora oggi quando si parla di queste cose si trova qualcuno che magari è allievo di quegli accademici di allora che si compromisero, che si sbraccia a difendere, a coprire, insomma è stata una compromissione impressionante. Grazie professore, complimenti per il libro e tanti auguri per la sua attività. Grazie tante, buonasera.